Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ancora una volta vi ringraziamo della vostra attenzione e ringraziamo Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. L'appuntamento con le repliche, per chi vi fosse eventualmente interessato, invece è spostato per motivi tecnici alla notte tra lunedì e martedì, dopo il notiziario.